non certo quella che serve agli italiani per poi scatenarsi, non ci sono grossi scandali se non i rigurgiti di Calciopoli 2 che però pare non interessino, non ci sono grandi polemiche fra i convocati, ci sono state e i tagli, Carlo, sono stati dolorosi per gli esclusi ma non certo epocali sul piano mediatico. Sì, no, questo non c'è dubbio, Roby. Voglio chiederti una cosa, ti piace questa rivoluzione culturale del nuovo CT Prandelli annunciato prima della partenza per il Sudafrica? Ma sai, io penso questo, Carlo, che ci sia stato lo schiaffo degli europei 2016 sì. Venerdì a Ginevra, caso voluto che due giorni dopo venisse annunciato Prandelli. Rapporto di causa ed effetto? Forse, probabilmente, ecco. Però sai, viviamo in un'epoca della cosiddetta trasparenza, la Francia ha fatto lo stesso con Raymond Domenech e Laurent Blanc, c'è chi come la Svezia due CT li ha avuti addirittura contemporaneamente, noi eravamo fermi ai due designatori con quali effetti abbiamo visto e adesso abbiamo un due senza, cioè un CT in funzione. È un CT che aspetterà, ma non più gufo come lo fu Lippi per Donadoni agli europei del 2008. Sì, sì, buona parte dell'arsenale della critica è disinnescato in questo modo. Va, resta chi viene, ma perché va, quando va? Sì, sì, infatti io penso che poi, come diceva Michel Platini, l'obiettivo è tale, per cui anche se la squadra sa già che ma al certo. CT in carica rimangono, speriamo tutti, non più di 7 partite, il massimo che puoi fare a un mondiale, hai voglia, gli stimoli vengono da solo, non è più il caso di Ferrara e Zaccheroni quando la Juve sa che Zaccheroni comunque sarebbe sceso a fine corsa.